24 mattino di Alessandro Milan. Buongiorno Alessandro e buon lunedì. Vai di brutto che oggi si lavora. Yuppie! 1, 2, 3, 4. Viaggio in Medio Oriente, in Europa, Trump, e abbiamo visto un cambiamento straordinario. Questo esponente politico americano che aveva detto tante cose per guadagnare voti, che poi sta facendo in qualche caso l'esatto contrario. Aveva avviato una guerra contro l'Islam. Poi ho visto che è andato in Arabia Saudita, che non è un modello di democrazia, Arabia Saudita. Ha incontrato i palestinesi, ha parlato di pace, ha fatto quello che facevano gli altri presidenti americani. Ha minacciato guerre commerciali nei confronti di tutti, adesso si è calmato. Allora, come si vede, un conto è parlare, un altro conto è governare. Sull'ambiente ricordo ancora quanti salti di gioia facevano i grillini quando ha vinto Trump. Che bello! La trasgressione, il popolo, contro i poteri forti, contro chi? Contro la salute dei cittadini. Beh, vuole reintrodurre il carbone, le perforazioni petrolifere. Piano piano probabilmente correggerà anche queste posizioni. Ma dai, caro presidente De Luca, il presidente De Luca ha scoperto che un politico in campagna elettorale dice cose e poi ne fa altre. Guarda che questa è una notizia sconvolgente, che ci travolge lunedì 29 maggio alle 6:30 del mattino. Personaggio improbabile, perfino esteticamente. Ma chi? Io? Presidente, piano adesso con le accuse, perché va bene tutto, ma... Questa specie di nido di quaglia, di cincia allegra che si porta appresso, questa vela al vento. Trump, vabbè, allora Trump ci sta, insomma. Grapparsi alla zazzera di Trump. Vabbè, signori. Signori, sono le 6:32 minuti. Questa è 24 mattino, ci siamo anche oggi parte una nuova settimana. Signori, oggi vi dico che parte questa settimana in cui i giornali non parlano altro, a parte che di Trump, Merkel e un po' di cronacaccia del lunedì, di elezioni anticipate. Adesso c'è questa fretta di colpo, no? Nel weekend non so cosa è successo che forse hanno sparso del peperoncino un po' nelle pietanze dei politici. Ora è una gara a votare prima. Beppe Grillo ha detto: a me va bene il 10 settembre. Pare che Renzi abbia risposto ai suoi: il 10 settembre va bene, anche il 22 settembre, ma non oltre il 24 ottobre. Veloci, presto. Io... Ma per me sarebbe una gioia estrema con un mojito in mano, i Bermuda e il sole del tramonto, che ne so, della Sardegna assistere dai giornali alla campagna elettorale il 20 di agosto, vedere questi in giacca e cravatta che devono fare delle promesse che manterranno, sì, mica come Trump, loro le manterranno tutte. Parlare di alleanze, Alfano che si scapicolla perché gli mettono il la soglia di sbarramento al 5% e guarda caso si è accorto che forse non gli arriva il 5%. Ragazzi, ma è stupendo. Ci vorrebbe uno stupendo di Vincino, stupendo! In tutto a Paratico ci sono già 20 gradi, signori. Fa caldo anche oggi. Così come a Cernusco sul Naviglio, 21 gradi, che caldo, un abbraccio Salvatore. Lui dice Cernusco sul Naviglio delle Amazzoni. A Gioia del Colle ci sono 16 gradi e sole, ci fa sapere Andrea da Taranto. Eccolo qua il nostro Marco da Riyadh. A Riyadh, dove era da quelle parti anche Trump. Sole velato da uno strato di sabbia sospesa da un leggero vento da nord, 33 gradi. A Valdarno 20 gradi, umidità 75%, afa! Così ci fa sapere Salvatore. Mentre la temperatura a Barga, Lucca, è 15 gradi, signori, in questo momento. Ringrazio questo ascoltatore che ce lo fa sapere da Barga, Lucca. 20 gradi e sereno, Luciano di Caldogno, che ci dice anche forza Juve. Beh, avete vinto il triplete, complimenti. Nascere romani e romanisti è un privilegio. Mamma mia, ragazzi. Fare il capitano di questa squadra è stato un onore. Siete e sarete sempre nella mia vita. Questa è un'altra, ragazzi. Smetterò di emozionarvi con i piedi, ma il mio cuore sarà sempre lì con voi. Ora scendo le scale, entro nello spogliatoio che mi ha accolto che ero un bambino e che lascio adesso, che sono un uomo. Ora, amici della Roma, io vi voglio dire una cosa che non appaia assolutamente per nulla negativa, eccetera, perché massimo rispetto per un campione, un uomo, un campione che ha vinto tutto, beh, no, ha vinto tutto proprio no, insomma, però è una bandiera davvero. Però mo basta. Cioè basta, senso. Ho letto degli articoli, oggi sembrava un funerale, ma così testuale sulle pubbliche, c'è un po' la morte. Ma oh! Oh! Ripigliatevi! Cioè ha smesso di giocare Totti, grande festa, giusta, doverosa. Ma basta! Cosa farò? Aiutatemi, ho paura. Che cazzo. Vabbè, devo salutare e saluto con grande piacere un uomo che è stato onorato anche di un grande articolo ieri da Aldo Grasso in prima pagina del Corriere della Sera, il quasi omonimo Carlo Rienzi, presidente del Coda Consiglio. Ce l'abbiamo solo noi, ce l'abbiamo solo noi. Una bella foto poi in toga e fiocco. Mi ha messo Grasso che accusandosi di volere notorietà me ne ha data un sacco. Infatti, fantastico. Infatti lo ringraziare, io me l'ho detto di ringraziamento. Cioè, le ha fatto un editoriale in prima pagina a dire Rienzi va, cerca solo notorietà, esatto. E lo mette in prima pagina del Corriere. Quindi proprio notorietà a picco dopo. Infatti questo. Ho fatto un grande ringraziamento. Oggi mandiamo un mazzo di fiori. Insomma. Ah, non una querela a Grasso. No, come querela mai? Querelate la qualunque. Dicono le cattiverie. Vabbè. Allora, insieme a Carlo di Totti, volevo dire, finalmente ha ragione. Basta, perché nessuno dice che ha sfruttato la sua grande bravura e notorietà per fare la pubblicità al gioco d'azzardo. Quello vero, me l'ero dimenticato. dimenticato che questa. Speriamo che la smetta. Aveva fatto una bacchettata anche su questa. Allora, insieme a Carlo Rienzi abbiamo il nostro Maurizio Bianconi in direzione Italia. L'abbiamo sbrandato così al mattino. Maurizio, buongiorno. Buongiorno. Tanto lui è sempre sveglio, ci aspetta, sì, così. Sì. In direzione Italia, ecco. Allora, parliamo subito di questa cosa. Apriamo il Parlamento. Ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli sta perché sopra così, Bianconi ci ha detto che in realtà nessuno vuole andare a votare, cioè non si andrà a votare assolutamente. Però a leggere oggi il giornale è tutto. È il 10 settembre, il 12 settembre, il 14, massimo 22, 28, 24 ottobre. Bianconi. Io ho vacillato. Dico, mi sono sbagliato, vacillato. Continuo a pensare che si voti fra febbraio e maggio del 2018. Mannaggia, e cos'è? Tutta una presa per il culo, quindi. Sì, fa il gioco della urgenza. Pur di andare a votare, approvate subito questa legge che ci riporta al 1989. Ma se è tale l'interesse che si vota subito, che bisogna anche approvarla, la famosa emergenza. Eccola qua. Dopodiché l'11 giugno si voterà, poi Mattarella dirà, ma il bilancio, ma il mondo internazionale, ma quello, ma quell'altro. Cavolo, porca miseria. La penso ancora così, però siccome non sono Dio, come lei bene sa, sì, sì. Né un genio, sì. Né un indovino, del mago Telma, posso anche sbagliare. Posso anche sbagliare, vabbè, può sbagliare. Bianconi. Io credo che abbiano paura adesso che più tempo passa, ognuno ha paura di perdere voti. Per cui si vanno a precipitare. Se lo fanno prima che si maturano i vitalizi, va bene. Eccola. Bianconi su questa parola. Su questa cosa, caro Rienzi, Bianconi potrebbe, spaccare un bicchiere. Perché lui c'è il vitalizio. Perché questa per lui è l'argomento peggiore. Per proprio fargli andare di traverso il lunedì, il martedì e pure mezzo mercoledì. Ecco. Indica la pochezza di chi difende e la pochezza di chi li accusa. Siamo un mondo di miserabili. adesso Bianconi, no, adesso. Vabbè. La mamma mia, su. Eccolo là. Non ho capito, è a favore dei vitalizi. Non è che a favore. Saranno dei mentecatti, deputati. Non ho capito. Condizionino le loro legislature a 800, a 700 euro netti a 65 anni. Cioè, questo è l'argomento di Bianconi. Se qualcuno dicesse si vota prima del 10 settembre per i vitalizi, cioè se qualche parlamentare dovesse calcolare la propria vita, la propria è un miserabile uno per 700 euro al mese. Bianconi sarà un signore, ma quelli mica sono Bianconi signori come lui. È uno che si è fatto da solo, Però Bianconi magari no, questo vuol dire magari 700 euro magari può essere miserabile per te, ma magari c'è qualcuno che dice. Ma uno che fa deputato, cazzo, sono 1000 su 60 milioni di persone. Dovrà essere un'elite. Se è un'elite, si attorcigli intorno a 700 euro, sono dei miserabili. Li hanno presi a casaccio quando hanno fatto le elezioni, per esempio. Lei ha fatto l'articolo Aldo Grasso, lei doveva fare l'articolo del Bernacoliere. No, non ho sentito. Dalle cazzate che dice, lei deve stare nel Bernacoliere la mattina. No, dice il Bernacoliere doveva fare l'articolo. Ma magari anche il Bernacoliere. Potesto qualunquisco da cazzo, dove penso di arrivare. Ma avete insegnato con questo qui, non mi richiamate quando Bianconi, dai, adesso. No, secondo me Bianconi c'è qualche interesse sui vitalizi. Questo rappresenta soltanto il gusto di fare il testa di cavolo. Maurizio, ma come no? Ma quello che attacca i vitalizi e dice a me vuol dire che sono signore. Lei lo sa con chi parla. Lo sapevo, i vitalizi, caro Rienzi, con Bianconi, non bisogna toccare. Non perché li difende. Ma non è che li difende. Ecco. Eccola. Viva i vitalizi e Bianconi. Dai Maurizio, non t'arrabbiare, basta. Sono passati 3 minuti fumantini dell'Aretino, ecco, basta. La questione vitalizi non è una questione, però dai, è una questione sul tavolo. Adesso non la voglio riaprire, perché sennò non ho detto niente di che. Infatti. È uno che fa il deputato. Si attacca a 700 euro miserabile. Ecco, questo è. Se uno che fa il deputato si attacca ad avere 700 euro miserabile, invece per Renzi è una questione, insomma, su cui... Anche Grillo l'ha detto, anche che non voglio riaprire un'altra questione, nomino Grillo Bianconi. Parliamo d'altro. Anche Grillo. Vabbè, insomma, però, Renzi, si va a votare o no, secondo te, c'è la questione che rimane? Secondo me no. No. Perché i vitalizi non ci rinuncia nessuno. No. Ho sbagliato. Va bene. No, però allora la Bianconi, l'altra questione è questa. Dimmelo sinceramente, però. Lo sbarramento al 5%. Questo vi frega? Questo vi può fregare e non vi piace? Lo sbarramento al 5% è di per sé una cosa giusta. Nel senso che le infinitesime piccole formazioni inquinano comunque un sistema proporzionale. Le ricordo che i tedeschi, che ebbero come noi imposto il proporzionale e il bicameralismo, quando fecero la legge elettorale per cercare di dare stabilità al sistema, misero la soglia al 5%. Quindi è un vecchio rimedio per eliminare i guasti del proporzionalismo. Ma non avete certo paura? Che ne risente la rappresentanza. E allora siamo di fronte, parlo di diritto elettorale qui, è una cosa seria, siamo di fronte a una contraddizione. Si sceglie il proporzionale perché ogni voto ci deve essere il suo rappresentante, però si sceglie che sotto il 5% nessuno può essere rappresentato. Quindi è una contraddizione. Di per sé non è sbagliato per far funzionare meglio. Vabbè, ma fa paura o no Direzione Italia? Perché adesso non mi vuol dire. A me, io francamente, fa paura il proporzionale, non il 5%. Perché i guasti del proporzionale in Italia, insomma, ci hanno portato a quello che fa oggi lo sceneggiato, quel 1993, tutta quella roba lì. 1993. Dipende bellissimo, da bellissimo. Dipende dal proporzionale, insomma. Il proporzionale segue sicuramente l'inclinazione degli italiani, ma non fa bene all'Italia. Non fa bene, va bene, dai. Allora a noi fa bene un po' di traffico adesso. Poi voglio capire una cosa, perché Carlo Renzi ha detto che ha uno scoop sui vaccini. Cosa ci devi dire? È vero che c'è una roba sui vaccini? Purtroppo sì. Mannaggia, aspetta un attimo. Dopo adesso. No, il traffico, poi dopo. Il vero problema di Milan è il traffico. Dopo il Mattarellum, il Porcellum, l'Italicum, il Rosatellum, io propongo il Parabellum per sparare a tutti. Siete dei venduti alle case farmaceutiche, perché non dici quanta gente è ammazzata dai farmaci? Milan, sei talmente ignorante che mi sento Superman stamattina. Sono stato uno di quelli che, quando ha scoperto la disabilità di mia figlia, ha anche creduto per debolezza all'idea che potesse essere il vaccino e l'accumulo di metalli nel corpo di mia figlia la causa dell'autismo. E mi sono affidato a delle maghe, degli stregoni, che sono quelli che veramente lucrano. Il sottosegretario Faraone, no? Che ha ammesso, avendo una figlia autistica, all'inizio di avere creduto anche a maghi stregoni. Lui l'ha detto, Renzi, lui l'ha detto. La cosa che possiamo dire oggi è che abbiamo avuto finalmente questi dati, che erano tenuti segretissimi, sulle reazioni avverse ai vaccini negli ultimi 3 anni, perché l'AIFA dovrebbe ogni anno pubblicarli. E la Lorenzini è andata in Consiglio dei Ministri senza portarli. Sono veramente impressionanti, perché abbiamo 2.551 reazioni avverse di cui 454 gravi e 5 bambini morti. Allora, noi siamo a favore dei vaccini. Che dati sono questi? Sono i dati dell'AIFA, che sono venuti fuori stanotte finalmente, grazie a noi, e domani li portiamo al Presidente del Senato, al Presidente della Repubblica. E li diamo alla stampa alle 12.30 a Piazza Navona. Ma e statisticamente come sono? Perché io sai che ho intervistato un po' di tempo fa, per la verità, uno studioso della Sapienza, dice è molto, molto, molto più rischioso prendere un'aspirina che fare un vaccino. Perché ogni farmaco può ogni farmaco può avere una reazione avversa. Una reazione. E questo ci sono le controindicazioni. Ogni farmaco. Però il problema che noi poniamo è che noi siamo a favore dei vaccini, ma vaccini singoli, perché i mix dei vaccini con i minerali pesanti, i metalli pesanti, sono pericolosi, ma secondo noi. E secondo molti. Ma capito, ecco, ma è questa cosa, secondo noi, cioè io non sono un medico. No, ci sono degli studi scientifici, non è che ce li stiamo inventando. Comunque un dato è sicuro: bisogna informare la popolazione. Bisognava che la Lorenzin informasse il Consiglio dei Ministri che ci sono stati 5 morti negli ultimi 3 anni bambini per il vaccino e 2551 reazioni avverse, moltissime delle quali di tipo psichico, a proposito di autismo. Allora non è che vogliamo fare terrorismo, ma noi vorremmo dei vaccini singoli e sicuri, e poi le indagini prevaccinali, prima di fare un vaccino facciamo un'indagine sul bambino. Allora non c'entra il vaccino, ma la storia ultima che è sui giornali, che torneremo ad affrontare anche la rassegna stampa del bambino poverino che è morto per le conseguenze di un'otite. Allora io leggo sui giornali che il medico lo vorrei mettere tra virgolette, ma è un medico a cui si sono affidati, Massimiliano Mecozzi, raccontano che era anche adepto di un gruppo mistico che pensa all'arrivo dell'apocalisse, che poi non è arrivata. E quindi, ma che c'entra l'omeopatia con i vaccini quando vengono mischiati insieme? No, per dire, però medico. Beccò 600 milioni da una casa farmaceutica per unire due vaccini. Ma lo so, ci deve essere una ragione quando si uniscono i vaccini tutti insieme. Vabbè. Comunque, questo provvedimento è anche molto politico, caro Bianconi, perché insomma, questo decreto, per esempio, il decreto sull'obbligo dei vaccini, arriverà o no per la conversione? Arriverà. A meno che Mattarella non lo firma, perché domani gli portiamo questo elemento. Ma no, sì, certo, vediamo. Vabbè, Bianconi, che succede? No, non sono un tecnico, però il mix di vaccini, insomma, così a me spaventa. Però voglio dire, io non posso dire se fa bene o se fa male. Certo che vaccinare contro il morbillo mi fa morire da ridere, questo sì. Perché? Io, perché l'ho avuto, voglio dire, il morbillo è una malattia infantile normale, non è che ci saranno sempre stati casi, però certo che in via generale demonizzare i vaccini eccetera eccetera non è una cosa fatta bene. Mi sembra che ci siano state due reazioni esagerate opposte, appunto. No, perché adesso il problema è questo, cioè voi dovrete anche decidere una conversione, ma non è che siete medici. Non abbiamo le competenze tecniche, ma spesso in Italia succede questo. Quando incominciano a sovrapporsi i dati tecnici o paratecnici o pseudotecnici o sedicenti tali a volontà politiche eccetera, si fa sempre del casino. Esatto. Io penso che insomma più ci si vaccina bene e meglio è, più però si fa, non lo so, io 12-13 vaccini insieme, io non ho la sensazione che facciano benissimo, ma si tratta di sensazioni. Sensazione, va bene. Allora, Rienzi, andrete. No, adesso questi dati fermeranno il decreto, voglio dire. Se sono tra l'altro dati dell'AIFA, quindi voglio dire, sono dati ufficiali, non è che erano nascosti, no? Questi dati nascostissimi. Prova a chiedere all'AIFA i dati sulle reazioni. E come avete avuto da averli? 3 anni, adesso li avete, quindi non è che li avete trafugati. Ma se come li abbiamo, vabbè. Li avete trafugati? No, però non li danno a nessuno, nemmeno. E come ministro, li avete? Cioè, siete andati all'AIFA, li avete rubati, non ho capito. Me li ha dati uno da lei, una gola profonda. Domani ve li daremo e capirete. Oh mamma mia, ragazzi. È una cosa veramente sconcertante. Ma mi pare possibile che uno fa un decreto legge su 12 vaccini insieme e non dà i dati sugli ultimi 3 anni richiesti da tutti, da mesi? Non li forniscono perché hanno paura che si sapesse la verità. Ma questo non va bene. A parte il vaccino o non vaccini, è il comportamento dell'amministrazione, la trasparenza, l'informazione. Vabbè, vedremo domani. Bianconi, conosci il professor Fusaro? Filosofo? No, come no? In TV spesso va il professor Filo. Sì, ma io la televisione guardo i film e le parole di calcio. Ho smesso. Niente. Com'è andata l'Arezzo quest'anno, tra l'altro? Beh, è arrivata fino ai playoff. Playoff, ma di che? Non mi ricordo, di Serie C. Siamo già in Serie C. Ci ha provato nel senso che poi siete fuori? Sì, ma l'ha fatta apposta perché costa troppi soldi. Ma come l'ha fatta apposta? Vabbè. Sì, perché la squadra non è in mano a Vettini, è in mano ai soliti romani che arrivano, vengono un po', poi si cavano dai coglioni. Va bene. Hanno colonizzato un po'. Comunque, il professor Fusaro, noi abbiamo iniziato una rubrica che sono le perle del professor Fusaro. Ascoltate con attenzione perché dovete tradurci bene cosa ha detto. E il solo modo per farlo è porre al centro la solidarietà comunitaria. Ripartire dunque dall'interesse nazionale. Un interesse nazionale rispettoso dei popoli e delle culture plurali, che sia antitetico rispetto alle esiziali tendenze oggi in auge del nazionalismo e del globalismo. Vabbè, insomma, ma questo era abbastanza chiaro, Bianconi, non so. Sì, soltanto che non vedo nazionalismo. ecco, quindi questa non era una perla di Fusaro molto esiziali, forse. Esiziali normale, no? Vabbè, normale. No. È la parte di quello che dice. No, vabbè, effettivamente oggi si è comportato abbastanza bene per il professor Fusaro. Va ma bene, chi sarebbe questo individuo? Ma è un filosofo, che va spesso in TV, ogni tanto dice anche delle perle, con dei termini un pochino più complicati, un pochino più da tradurre, però, insomma, non per tutti, insomma. Un po' assenteista questo Bianconi, sto guardando, 55-62 assenze. Capito, Bianconi. Sì, ma lo vedete 44. Che questo è da Verna... Ma questo è da... Missioni zero. Questo è da Vernacoliere, davvero. No, lo sa o no che io sono in malattia da circa 3 mesi? Questo è vero, si è operato alla spalla. Se un altro po' muoio. Ma lei, che ha avuto una legislatura tribolatissima per farti salute. Ma lei è proprio un poco di buono. Io ho la sensazione che lei è un poco di buono. No, la gente è così. No. Ma può puttanare la gente. No, il nostro avvocato Rienzi. Non toccate Rienzi, non toccate Bianconi. Direzione Italia. Questa è la mia posizione democristiana, proprio. Non sto con nessuno, proprio il peggio del peggio, va bene. Dai, ci troviamo alla prossima. Grazie a Maurizio Bianconi e Carlo Rienzi. Alla prossima. Forza, io no. Al mio segnale, scatenate l'inferno. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Ecco, aspetta che rispondo in diretta a questo ascoltatore. Sembri stipendiato dalle case farmaceutiche. Ho detto, certo, mi pagano tantissimo. Ecco, sì. Anzi, vorrei dare l'IBAN a tutte le case farmaceutiche italiane e mondiali, se possibile. E comunicherò presto il mio IBAN. Se volete fare un versamento così mensile o anche settimanale, siete... vabbè. Dai, andiamo avanti. Già è lunedì, no? Già è lunedì. Sono le 7:20 del mattino, sono qui dalle 5:30. E forza, va bene. Forza ragazzi, dai che è lunedì, veloci, bisogna reagire a questa bollitudine del weekend. Siamo pronti a leggere i giornali nella rassegna stampa di 24 mattino con Peter Bescapè in regia, con Lorenzo Nespoli, con la nostra Elisabetta Fusconi che arriverà, più tardi arriva anche Oscar Giannino, ci siamo tutti, dai, allora andiamo a leggerli. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Lunedì 29 maggio per l'appunto, intanto i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore nell'edizione del lunedì è sulla Voluntary Bis. La Voluntary Bis non decolla, questo è il titolo, con un sondaggio del Sole 24 Ore tra i professionisti a 2 mesi dalla scadenza, ancora poche richieste e adesioni. Poi vediamo un po' le aperture. Il Corriere della Sera sulla fine del G7, la sfida di Merkel a Trump. Questa è anche l'apertura per La Stampa. Merkel, l'Europa va davanti da sola. Davvero è finita male tra Merkel e Trump dopo il G7. Repubblica invece, migranti, l'accusa di Strasburgo e Merkel. Trump è inaffidabile. Poi invece ci si sposta sulla questione politica interna. C'è una gran fretta, almeno a parole, di andare a votare. Patto sui conti prima del voto, questo è il titolo del Messaggero. Il Quirinale chiede un impegno per blindare la manovra, poi alle urne con la nuova legge. Il Giornale invece, riforma elettorale, politici, chi rischia il posto? Lo sbarramento al 5% lascia fuori dal Parlamento i partiti più piccoli, dagli Alfaniani agli ex PC di Bersani e D'Alema. Il titolo invece del Giorno ci riporta sulla questione internazionale, lo strappo di Angela, questo è con la foto di Angela Merkel e Donald Trump, mentre è Libero intervista la creatrice del partito animalista, mettiamo un cane al governo, è il titolo di Libero, di prima pagina, provocatoria ovviamente, l'intervista a Michela Vittoria Brambilla. Il Fatto Quotidiano invece è un'intervista a Landini della CGIL. Piazza contro imbroglioni, manifestazione della CGIL anti-voucher il 17 giugno a San Giovanni, Roma. Il leader della FIOM CGIL, Landini, viene intervistato. Oh, io voglio tornare su questa notizia di cronaca che aveva dato in anteprima il Giorno qualche giorno fa, e cioè della situazione di salute molto grave. Purtroppo poi è morto questo bambino di 7 anni curato per un'otite con l'omeopatia. Ora, intanto ci sono due aspetti, c'è l'aspetto giudiziario, raccontano tutti i giornali, il Corriere della Sera per esempio a pagina 15, sono indagati il medico e i genitori dalla procura di Urbino, i genitori e anche l'omeopata Massimiliano Mecozzi sono indagati per omicidio colposo, è un atto dovuto per consentire ai genitori e al medico di nominare consulenti di parte che assisteranno oggi stesso all'autopsia di Francesco, 7 anni ancora da compiere. Certo, ci sono degli aspetti sinceramente inquietanti che vengono fuori il Giorno a pagina 11, ma anche a Repubblica a pagina 14, raccontano il profilo del medico omeopata Massimiliano Mecozzi, romano di 54 anni. Leggete per esempio il Giorno a pagina 11, medico e anche facchino attratto dall'apocalisse. Massimiliano Mecozzi, classe 62, medico dal 96, sposato, figli, una casa in mezzo alla collina di Pesaro, è omeopata ma non si sa perché. L'Ordine dei Medici di Pesaro, a cui è iscritto, gli ha chiesto ripetutamente quali titoli avesse per praticare l'omeopatia. Lui non ha mai risposto, o meglio sì, una mail ha inviata dicendo «non mi interessa rispondervi». Nessuno gli ha fatto altre richieste. Così come nessuno si è posto il problema di capire cosa abbia fatto per 4-5 anni dopo essersi cancellato dall'albo dei medici per poi ripresentarsi e iscriversi di nuovo. In quella pausa era diventato facchino in un supermercato a Varese, dove era corso per seguire un'associazione religiosa dal nome Roveto Ardente, finita anche nelle pieghe di un'inchiesta chiusasi con un non luogo a procedere. Lui non venne indagato, ma faceva parte di un gruppo mistico, spirituale, che prevedeva l'apocalisse imminente, tanto da abbandonare la professione medica per anni, diventando operaio e addetto al carico-scarico del market. Poi Roveto Ardente è finita e Mecozzi si è tolto la tuta da lavoro e ha reindossato il camice bianco. E Repubblica lo descrive così, il dottore che credeva nell'apocalisse e non negli antibiotici, Paolo Brera. Li ospitava nel suo casolare la Rupe del Falco, gli altri adepti della setta del Roveto Ardente, quelli che ai matrimoni si vestivano da cavalieri del mondo di Camelot, curavano il mal di testa con l'imposizione delle mani in attesa dell'imminente fine del mondo. Si riunivano a casa del dottor Mecozzi, l'omeopata accusato di non aver curato adeguatamente il piccolo Francesco. Secondo la previsione dell'associazione Roveto Ardente, il mondo nel 2008 non aveva scampo, l'apocalisse. E poi siamo arrivati nel 2017, per sfortuna loro, ed eccoci qua, allora un mondo da ricostruire, da reinventare, da tornare, tornato a fare il medico. E questo è successo, una tragedia. Trovate le foto anche dei genitori del piccolo Francesco sui giornali. Questa vicenda che continua, c'è anche un'intervista a Boiron, il re dell'omeopatia, Christian Boiron, nato a Lione il 13 giugno del 47, laureato in farmacia, l'imprenditore intervistato da Elvira Serra sul Corriere della Sera, che dice: io prendo gli antibiotici e li do anche ai miei figli, sono complementari agli altri farmaci. L'anno scorso ho preso l'ultimo antibiotico dopo l'estrazione di un dente del giudizio. L'ultima aspirina che ho preso stamattina, la cardioaspirina la prendo tutti i giorni. Quindi esordisce così Christian Boiron, direttore generale del gruppo Boiron, leader mondiale dei farmaci omeopatici, quasi 4.000 dipendenti, un fatturato di 610 milioni di euro. Ho dato anche ai figli gli antibiotici, sono un farmacista e ho scelto ogni volta la cura migliore per loro, come qualunque papà e nonno. E dice: esistono innanzitutto le persone che reagiscono tutte in modo diverso. È chiaro che per certe sintomatologie non gravi e frequenti preferisco raccomandare un farmaco omeopatico. Il punto centrale è la sinergia. E certo, poi Christian Boiron dice: certo, se una persona muore dopo aver preso un farmaco invece allopatico, nessuno dà la colpa alla cura, e purtroppo nel mondo ogni anno muoiono 2 milioni di persone per questo, ma nessuno dice niente. Insomma, questo dibattito è aperto e la vicenda di cronaca in sé è ovviamente terribile. Voglio dare invece qualche numero, perché intanto i numeri, venendo a un'inchiesta del Corriere della Sera, si può dare riguardo a un fenomeno che è certamente in grande espansione, soprattutto nelle grandi città, vale a dire il car sharing, cioè la condivisione delle macchine. Ormai sono sempre di più le sigle Share and Go, Car to Go, Enjoy, Drive Now, Car to Go, sì, l'ho già detto. Ci sono varie sigle, varie aziende. Però oggi il Corriere della Sera fa un'inchiesta nella quale, con Leonard Berberi e Giacomo Valtolina, per la prima volta mette un po' dei numeri. I numeri dei bilanci non sembrano rappresentare un mercato molto florido dal punto di vista dei guadagni, dei ricavi di queste aziende. Allora, da come inizia questa inchiesta, a pagina 18-19, Mr. Bao atterra nella Milano cinese e pochi giorni dal primo derby della Madonnina orientale. È un ex militare, oggi imprenditore 47enne, produce 80.000 automobili elettriche l'anno. In 3 anni i suoi quadricicli ZD hanno conquistato le strade d'Italia. Da poche centinaia sono diventati 1.450 dal 2014 a oggi, pronti a moltiplicarsi. Sono le automobiline gialle del car sharing Share and Go. Zitte zitte hanno invaso le città, insidiando la leadership di Car2Go di Daimler, Mercedes, di Enjoy di Enel e di Drive Now di Mini e BMW, tra Mini e BMW. Tuttavia, quando si parla di prospettive economiche, lo stesso Mr. Bao dice: beh, dovrò essere paziente, non avrò un ritorno economico immediato. Ecco, è il paradosso del car sharing. Le auto in condivisione sono entrate nelle vite dei cittadini, integrano la rete di trasporto pubblico delle metropoli italiane, sono semplici da usare, sono anche poco costose, ma quando si guarda i bilanci, i numeri raccontano un'altra realtà, certo in fase di startup. Crescono i fatturati, ma crescono anche le perdite di esercizio. Gli operatori non comunicano i dati, ma dalle visure camerali si può osservare come nel 2015 Car2Go Italia abbia messo a bilancio costi di produzione 22,5 milioni, quasi doppi rispetto ai ricavi, 12,3 milioni, Insomma, una perdita di esercizio di 7 milioni e mezzo. Più difficile analizzare i conti di Enjoy dispersi nella società Anyfuel SRL o di DriveNow. La controprova è Share & Go di Mr. Bao. La livornese CS Group SPA sta sviluppando il fatturato, ma nel 2015, di fronte a ricavi per 3 milioni, i costi di produzione raggiungevano i 4 milioni e mezzo per una perdita di esercizio di 1,2 milioni. Insomma, certo, il sorpasso del car sharing, comodo, sempre più diffuso, ma pensate che nel 2016 c'è stato un più 45% di utenti rispetto all'anno precedente, però i numeri dicono che i ricavi per le aziende non sono grandissimi. Mentre c'è un numero, che è l'apertura di Repubblica, che vince nettamente il titolo dell'articolo che mi fa pinzare della giornata. C'è un numero semplice, numero 1. Ecco, questa è l'accusa, Goffredo De Marchis, a pagina 2 di Repubblica, di questo 1. Sapete su 5.000 minori approdati in Italia tra i migranti? 5.000 minori. Quanti sono stati ricollocati in Europa? 5.000 arrivati? 1, per l'appunto. La denuncia è del Parlamento europeo. 1, il numero del cinismo europeo. L'Italia ha bisogno di 5.000 posti nell'Unione per ricollocare i minori non accompagnati arrivati sulle nostre coste. Fra i paesi europei sono stati accolti finora un minore. Lo scrive nero su bianco il Parlamento di Strasburgo. Così come il Milite Ignoto, questo 1 è il simbolo della ferocia della guerra. È l'anonimo e unico bambino senza genitori coinvolto nel programma di accoglienza che è l'emblema della mancata solidarietà dell'Unione Europea, della sua disunione, della sua crisi. Eccolo qui, Goffredo De Marchis su Repubblica, pagina 2, Strasburgo accusa, ricollocato un solo minore dei 5.000 approdati in Italia. Ma signora, ma che fa? Ma metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, ma per cortesia. Alessandro Milan, il Francesco Totti dell'informazione. Nel senso che mi devo ritirare, però lo faccio commuovendomi tantissimo. Allora, bisogna parlare di politica e oggi troverete sui giornali ovviamente 3-4 paginate ovunque sulla legge elettorale, sulle soglie di sbarramento, sulle alleanze, sulle unioni, sulle divisioni, sulle strategie. E poi danno i numeri, danno le date. Adesso ha preso tutti questa gran fregola di andare a votare. Votazioni anticipate. Ieri anche il cerchio si è chiuso, perché, come racconta Carmelo Lo Papa su Repubblica, pagina 8, anche il via libera del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, è stato fatto un referendum lampo via web, con l'annessa provocazione si voti a questo punto il 10 settembre, hanno votato gli iscritti, sempre ovviamente dichiarato in un post di Beppe Grillo, non è che possiamo andare a verificare, comunque hanno partecipato alla votazione 29.005 iscritti, 27.473 hanno votato sì per la consultazione web sulla riforma tedesca, il sistema elettorale tedesco con sbarramento al 5%, hanno votato no 1532. La legge elettorale che voteremo sarà il proporzionale tedesco con sbarramento al 5% ed eventuali correttivi costituzionalmente legittimi per garantire maggiore governabilità. Quindi c'è la proposta di Berlusconi a Renzi. Renzi dice va bene, c'è il sì di Beppe Grillo. Basta, adesso la questione, si vada a votare. Il 10 settembre, dice Beppe Grillo, potrebbe essere una buona soluzione. Ed ecco allora le strategie, pagina 5 del Corriere della Sera, Monica Guerzoni. Renzi vede il traguardo e non cede ad Alfano. In autunno si va al voto. La grande commedia della legge elettorale è finita. Da oggi i destini della legislatura, gli sgoccioli si scriveranno nel retropalco. È la settimana cruciale, signori, è la settimana decisiva. Infatti è scritto nero su bianco sul Corriere della Sera. Ogni giorno un appuntamento chiave, ogni giorno un possibile colpo di scena. E alla fine o salta fuori l'accordo o salta tutto. Anzi, la legislatura sembra segnata in ogni caso, visti i ragionamenti di Renzi confidati ai suoi. Perché voglio votare in autunno? Perché una volta approvata la legge elettorale con sbarramento al 5%, l'alleanza di governo è finita. Senza Alfano al Senato non avremmo i numeri per governare. Renzi, che terrà le sue consultazioni al Nazareno, ha rinunciato a incontrare Berlusconi per togliere ai grillini l'arma dell'inciucio. Ed è giallo sull'incontro con Alfano. Angelino, furioso, lette le ultime dichiarazioni dell'ex premier, alzato i toni e fatto sapere che diserterà l'incontro. Queste le strategie. Ecco anche Repubblica, lo sprint di Renzi, ma il Colle, cioè il Quirinale, i conti devono essere al sicuro. Infatti anche il Messaggero si concentra una pagina su questo retroscena di Alberto Gentili su cosa pensa il Quirinale Mattarella. Il Colle, se si vota prima, garanzie sulla manovra. Fa sapere il Messaggero: bocche cucite al Quirinale, ora che finalmente sembra aver preso slancio la tanto attesa auspicata trattativa sulla legge elettorale, con addirittura il coinvolgimento di PD, Forza Italia e 5 Stelle, Mattarella non ha alcuna intenzione di intervenire. Teme che qualsiasi parola possa innescare interferenze capaci di frenare l'inedito slancio riformatore. Effettivamente inedito slancio riformatore, perché nel giro di una settimana, dopo l'intervista di Berlusconi 10 giorni fa a dire votiamo il sistema elettorale tedesco, sembra che abbia trovato la panacea di tutti i mali e tutti d'accordo. Ovviamente tutti, non proprio tutti, quelli che rischiano con lo sbarramento al 5% di rimanere trombati non è che saranno molto contenti. Il Giornale, con Pasquale Napolitano a pagina 3, fa anche tutto un bel elencone. Dice Pier Ferdinando Casini è uno che rimarrà fuori dopo 28, dopo che ha varcato Montecitorio all'età di 28 anni in Parlamento. E poi Alfano, che dopo l'addio a Forza Italia insomma, è accreditato a un 2,8%. Denis Verdini, ma anche Giorgia Meloni rischia, visto che è data al 4,5%. Le nuove formazioni come Direzione Italia, prima abbiamo avuto ospite Maurizio Bianconi. Michela Vittoria Brambilla ce la farà col suo partito animalista a conquistare la soglia, dovesse passare questa soglia? E certo, la battaglia dei cespugli contro la soglia è anche il titolo del Corriere della Sera. Protestano molti, anche Sinistra Italiana, che chiede la soglia, abbassata al 3%. Insomma, è chiaro che chi non pensa ad arrivarci non è molto attratto da questa soglia al 5%. Dicevo di Michela Vittoria Brambilla, oggi trovate un'intervista, pagina 2 e 3 di Libero, intervistata dal direttore Pietro Senaldi. Il titolo di prima pagina è un po' provocatorio, è «Mettiamo un cane al governo», ma insomma Michela Vittoria Brambilla parla e dice «Rappresentiamo milioni di elettori con il partito animalista, vogliamo avere i nostri uomini in tutto le istituzioni», e poi aggiunge «siamo autonomi da Forza Italia», perché la domanda è chiara: non è che l'abbraccio di Berlusconi rischia in qualche modo di allontanare da voi gli animalisti che sono anti-berlusconiani? E risponde la Brambilla: «confido nel senso pratico degli animalisti. Ricordo che sotto i governi Berlusconi sono state approvate molte leggi a favore degli animali: l'introduzione dei delitti di maltrattamento e uccisione, la ratifica della convenzione sugli animali da compagnia, l'istituzione del reato di traffico di cuccioli, il soccorso stradale per gli animali. Renzi e Gentiloni, no, c'è un punto, per gli animali, punto. Renzi e Gentiloni, per ammissione degli stessi animalisti di sinistra, hanno fatto il gioco dei cacciatori. Quanto ai 5 Stelle, parlano e promettono, ma a Roma le botticelle, vergogna mondiale, continuano a circolare». Insomma, ci sarà anche una campagna elettorale in cui sentiremo appunto questo. Chi ci deride si ricrederà. Questo è il mantra. In tanti già scodinzolano dietro al partito animalista. Questo è il titolo dell'intervista di Pietro Senaldi a pagina 2 e 3 di Libero. A proposito di Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, beh, questa era un pochino scontata. Vabbè, ma questa proprio non la quotavano neanche i bookmaker inglesi. Sì. Era proprio scontata questa qua. Vabbè. Comunque, a proposito di nulla, arrivo io con gli endecasillabi del lunedì, caro Alessandro Milan, perché c'è tocca. È finito il campionato? Ma se meno male, mi viene da dire. No, bene, non so cosa vuoi che dica. Hai fatto già i complimenti alla squadra di Torino per il triplete? Per il triplete? Come no? È un anno storico, insomma, quando si vince il triplete. Voi dell'Inter sapete bene cosa vuol dire. Complimenti all'Inter, complimenti alla Juve. Infatti siamo contenti che anche altri abbiano già provato la nostra stessa gioia. È chiaro. Va bene, vado con gli endecasillabi senza por tempo in mezzo. Ai musici e cantanti straordinari si chiede spesso il bis, gradito assai, ma non suona sì ben la volontari disclosure che il suo bis cade tra i guai. Interrogammo esperti e consulenti sul Sol 24 Ore con sondaggio, da tutti però giunsero lamenti, nessun riemerge e già finisce maggio. E più che le vicende dei birbanti usi a schivare l'IRPEF quando arriva, preoccupa già in vero tutti quanti che se il rimpatrio cala sale l'IVA. Ma il nostro lunedì, che è sempre saggio, fa inchieste, dà commenti e dà consigli sull'antitrust e l'antiriciclaggio o il bonus che non prendono i figli perché manca il decreto santi numi per i ragazzi del 99. Anche all'esperto noi chiediamo lumi e in allegato abbiamo risposte nuove. Si è chiuso? Oh, che sollievo! Senza botti un campionato che fu ben poco magico. Al calcio mancherai, Francesco Totti. Piccolo omaggio. Ed ora vada il traffico. Lo volontari discrasciur, che cavolo ordi! Mannaggia la puttana, spiegatevi bene! Alessandro Milan, il gladiatore dell'informazione! Qua ci stiamo un po' tottizzando, eh? Allora, signori, veniamo all'attualità internazionale, perché è finito il G7 a Taormina ed è finito maluccio, bisogna dire, soprattutto nei rapporti tra Germania e Stati Uniti, tra Merkel e Trump. Trump è arrivato qui col suo fare un po' duro, a non fare sconti a nessuno, non certo un artista della diplomazia, tanto che, come racconta e come ricorda Federico Fubini, alla cena dell'Alleanza Atlantica a Bruxelles giovedì sera, Trump aveva descritto i tedeschi così: sono pessimi, guardate quanti milioni di auto ci vendono negli Stati Uniti, è tremendo, fermeremo questa storia. Ecco, a Taormina, dall'indomani, Merkel ha definito la polemica fuori luogo e si è limitata a sottolineare come la qualità dei prodotti tedeschi li renda ricercati all'estero. Poi però ieri è rientrata in Germania e, parlando in Germania al suo popolo, Angela Merkel, come racconta Danilo Taino a pagina 2 del Corriere della Sera, ha detto: non possiamo contare sull'America. Questo in sostanza. I tempi in cui potevamo contare pienamente su altri sono in una certa misura finiti, come ho sperimentato nei giorni scorsi, ha detto la Merkel. Noi europei dobbiamo veramente prendere il nostro destino nelle nostre mani. Naturalmente dobbiamo avere relazioni amichevoli con Stati Uniti e Regno Unito e con altri vicini, inclusa la Russia. Ciò nonostante, dobbiamo essere noi stessi a combattere per il nostro futuro. E poi ha definito l'Unione Europea un tesoro e ha citato Macron. Di certo una cosa invece sono andati d'accordo Trump e Angela Merkel, e cioè che non era il caso di parlare oltre. Quindi, per la prima volta da quando esiste il G7, un presidente americano e un cancelliere tedesco se ne sono andati dribblando e senza accettare domande in pubblico. Questo a capire che il clima è quello che è, di tensione. A proposito di clima, c'è un'altra questione, appunto. Gli Stati Uniti potrebbero uscire dal protocollo del clima, del trattato di Parigi. Questo almeno è ciò che Trump ha fatto così ipotizzare, dicendo che prossimamente, forse la prossima settimana, ci sarà anche una posizione ufficiale da parte della Casa Bianca. E allora ecco che a pagina 5 della Stampa Luigi Grassia risponde alle domande. Che cos'è il trattato di Parigi sul clima da cui Trump vorrebbe uscire? È un accordo internazionale che mira a frenare il riscaldamento globale, firmato abbastanza di recente nel 2015, alle spalle una lunga elaborazione, essendo erede di varie iniziative, tra cui il famoso protocollo di Kyoto del 97. In che cosa consiste il riscaldamento globale? Che impegni ha stabilito il trattato di Parigi? Insomma, la Stampa risponde a tutte queste domande. A proposito di impegni stabiliti, l'obiettivo è limitare l'incremento della temperatura media della Terra in questo secolo a meno di 2 gradi centigradi rispetto al livello preindustriale. Molti climatologi ritengono che questo sia già troppo perché il pianeta lo possa sopportare, ma per le ragioni dette sopra, e cioè in che cosa consiste il riscaldamento globale, non sarebbe realistico proporsi obiettivi più ambiziosi. E se Trump disconosce il Trattato di Parigi, che succede? I casi sono due. Se il presidente decide di non rispettare il Trattato di Parigi, ma l'America non lo segue, non cambia nulla. E questo è uno scenario possibile, perché l'industria degli Stati Uniti nel suo complesso ha già fatto molti investimenti verso la transizione energetica, avrebbe difficoltà a cambiare strada un'altra volta. Se invece Trump convince il suo paese ad abbandonare la lotta all'effetto serra, questo può vanificare tutto lo sforzo globale in tal senso. Magari l'Europa andrà avanti comunque per convinzione, ma altri paesi penseranno che sia stupido impegnarsi mentre gli Stati Uniti non lo fanno. Tutto tornerebbe in discussione e gli obiettivi al 2050 diverrebbero irrealistici. Come capite, lo scenario che abbiamo di fronte è uno scenario, come dire, complesso, e dipende molto dalla posizione di Trump. A proposito di terrorismo internazionale, vi segnalo che è stato arrestato invece il fratello di Salman Abedi, quello che ha colpito a Manchester. È stato arrestato lui perché voleva anche lui fare il suo attentato, voleva uccidere l'inviato tedesco in Libia Martin Kobler. Questo almeno raccontano. E per questo il gruppo legato al kamikaze di Manchester, che aveva pianificato un altro attacco a Kobler, il fratello è stato arrestato. Io non voglio sottovalutare questo allarme del Blue Whale, ne parlano tutti, questo gioco che è nato dalla Russia sarebbe poi sbarcato anche in Italia, in cui c'è un tutore sui social che adescherebbe, io uso il condizionale, vari tutori che adescherebbero soprattutto i minori, spingendoli a delle prove fisiche anche sempre più spinte, fino ad arrivare alla 50ª prova, che è quella di togliersi la vita. Dico, ci credo, e bisogna tenere le antenne dritte, gli occhi ben aperti per chi è genitore, gli adolescenti, eccetera. Però non vorrei che si generasse una psicosi collettiva in nome di questo Blue Whale, perché adesso gli adolescenti hanno sentito questo nome, Blue Whale, e quasi in maniera condizionata, quindi dal fatto che se ne parli, ci appiccicano magari al disagio giovanile che c'è sempre stato questa parola, Blue Whale. Comunque, segnalo, cronaca, Blue Whale, gioco da incubo, salvata una 14enne a Ravenna. Aveva messo online le foto delle lesioni che si era autoinflitta. Anche qui, quanti ragazzini e ragazzine si autoinfliggono lesioni da anni? Prima non c'era il Blue Whale, adesso magari per un ragazzino dice faccio il Blue Whale. In realtà non sta facendo nessun Blue Whale, lo chiama così perché glielo stiamo mettendo nella testa noi. Ecco, questo dico, facciamo attenzione. Glielo stiamo mettendo nella testa e loro lo chiamano così. In realtà hanno un disagio. Certo, ce l'hanno, ma non lo so. Comunque ci sarebbe un caso di un altro Blue Whale a Ravenna, così raccontano i giornali. Va bene, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. È una ricerca. Simonetta Caminiti racconta sul giornale per mezza pagina che c'è una ricerca fatta da tanto di studio di due scienziati di non so quale università, che hanno scoperto che Facebook fa male alla nostra autostima, perché quando non riceviamo i like desiderati in un nostro post, l'umore crolla e ci sentiamo depressi. Ma chi se ne frega?